Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Avete aperto i vostri armadi? Oggi fatelo, sono le 10:06. Buona domenica da Stefano Gallarini. Andate a vedere se avete qualche scheletro, magari ve lo siete scordato lì ormai da tempo. Perché oggi, visto che si avvicina il carnevale e tutti a carnevale si mascherano, no? Cercano di essere qualcos'altro, perché il carnevale poi nasce anche per questo motivo. Si ribaltano le situazioni, i ricchi diventano poveri e viceversa, solo per un giorno, quindi non illudetevi, ma il concetto è che ci si nasconde. E invece io oggi pensavo di raccontare tutto quello che non si può nascondere. Per quanto ci si sforzi, ci sono cose che invece emergono. Sono le emozioni, sono parti del carattere, è la personalità e tanto altro. Quindi oggi vorrei così con voi raccontare ciò che non possiamo nascondere. A questo punto rendiamolo pubblico e facciamolo sapere. Quindi cercheremo di analizzarci in tanti modi diversi. Questo è l'argomento del riposo del guerriero, ma vi ricordo anche che alle 11:30 giochiamo con la nostra possibilità di portarvi a casa catalogo della mostra e due biglietti per la mostra di Modigliani che ci sarà a Milano, e ne parleremo più tardi alle 11:30, ma intanto voglio farvi ascoltare l'indizio. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo. Se riuscirete ad associare questa canzone, celebrissima tra l'altro, a uno dei quadri di Modigliani, riuscirete a portare a casa anche il catalogo e i biglietti per la mostra. Ne parliamo alle 11:30, il numero per prenotarvi già da adesso 800 24 00 24. Allora, oggi si parla di cose che non possiamo nascondere. Mi è venuta in mente questa canzone scritta da Lucio Battisti e interpretata invece anche da altri tre grandi artisti e cantanti, che racconta proprio di una sorta di triangolo che non sono riusciti a nascondere. Insomma, un triangolo che non è andato molto bene, visto che l'amico ha tradito l'altro amico con la sua donna. Insomma, uno dei tre morirà sicuramente. Chissà chi sarà a morire, lo si scoprirà soltanto vivendo, no, ascoltando la canzone, la versione però di Battisti, perché questa finisce ripetendo la strofa. Le tre verità, noi cerchiamo invece di capire quale sia quella giusta, la nostra. Candida Livatino, buongiorno, buona domenica. Buongiorno, ciao. Buona domenica a tutti voi. I segreti della scrittura, conosci te stesso e gli altri con la grafologia. Oggi apriamo così. Sì. La grafologia, che è una scienza che studia la scrittura, ovviamente. Sì, infatti attraverso la scrittura emerge il lato più nascosto del nostro io, ed è una scienza umana. Ci tengo anche a precisare che non predico il futuro, ma perché scrittura... qualcuno pensa che sì, tu predica il futuro. A volte mi dicono: qual è stata la mia scrittura, vinco il Totocalcio? Assolutamente no. Non ci posso credere. È come un'impronta digitale, unica ed irripetibile. Allora, tu sei perito grafologo, quindi sì. Questo significa che il tuo percorso anche di studio è stato particolarmente lungo e difficile. Sì, sì. Ben 5 anni, perché 3 anni grafologia e poi ci sono 2 anni per le specializzazioni, per la selezione personale, molto importante anche la grafologia per la selezione personale, per i disegni dei bambini. Anche i disegni dei bambini ci trasmettono il loro mondo interiore attraverso un semplice disegno. Anche il bambino che non sa ancora disegnare già ti può dire che come sarà da adulto. Il bambino che fa il cerchio, che in grafologia viene definita curva, quindi il movimento molto armonioso, significa che è un bambino che socializzerà. Il bambino che fa dei movimenti tipo angolosità, vuol dire che un bambino sarà un bambino reattivo, un adulto reattivo. Quindi già vedi che anche solo attraverso un semplice scarabocchio emerge come sarà il bambino d'adulto. Ecco, in realtà la nostra grafia è un po' uno scarabocchio, no? Anche se segue delle regole, ovviamente, però sono dei segni, quindi i segni ci dicono

Ho una scrittura tonda infantile, cambiata pochissimo dall'infanzia a oggi. Ha un significato? Sì, certo, ha un significato. Vuol dire che la persona inconsciamente non vuol crescere, vuol rimanere ancora legata ai bisogni primari, alla famiglia. Stento a credere che la grafologia abbia fondamento scientifico. Cosa vuoi che rispondo? No, beh, te lo leggo. Non è un obbligo, cioè uno può crederci come non può crederci. Non è una disciplina. È per me è una scienza, sì. Non è una disciplina esoterica, ecco. No, è una scienza. Questo sicuramente. E ovviamente ci sono, e addirittura, senti, questo, ti leggo questo messaggio. Allora, il margine sinistro inizio con un centimetro e mi allontano dal margine ad ogni riga, sì. E alla fine la distanza diventa più del doppio. Sì, e che si stacca appunto, sì, sempre di più dal margine sinistro vuol dire che non ha vissuto in maniera soddisfacente il rapporto con la famiglia, quindi tende a staccarsi. A staccarsi man mano, certo, rifugiandosi spesso anche nella fantasia per non affrontare magari la realtà. Ecco, quindi questo è anche un desiderio, potrebbe essere, non la realtà, cioè io posso vivere ancora con la mia famiglia, ma il mio desiderio è quello di staccarmi. Sì, inconscio. Sì. Quindi si legge anche in questo senso la grafia. Sì, ovviamente. Certo. Ecco, poi c'è la pubblicità, avremo un altro ospite e poi voi preparatevi sempre a scrivere. Ormai so che avete il foglio bianco davanti, scrivete una decina di righe. Mi raccomando, firmate, perché poi parleremo della firma. Il riposo del guerriero. Quello che non possiamo nascondere, di cosa si parla nel riposo del guerriero, sono con Candida Livatino, grafologa e perito anche. Grafologo, volevo fare anche questa differenza, perché le perizie sono diverse, la perizia non serve a interpretare la personalità, ma serve a confrontare due grafie e cercare di capire se arrivano dalla stessa persona. Dalla stessa mano, sì, certo. Quindi queste tra l'altro vengono anche usate scientificamente. È più tecnico, certo. non è come fare il profilo personalità. È un'altra cosa, è chiaro. Sì. E vi invito anche a scrivere, a raccontarci con i vostri sms alcuni punti della vostra calligrafia che ritenete interessanti, così possiamo discutere. 349-238-6666, mentre ho Guido Guidi Guerrera al telefono. Ciao Guido, buona domenica. Buona domenica, ciao, buongiorno. Scrittore e giornalista e molto altro ancora. Ora, io non ho capito, Guido, tu stai preparando un saggio sulla fisionomica, ma ne hai già scritto uno nel passato? Sì, ne avevo scritto uno, sì, che era di ordine assolutamente satirico, era tra l'altro corredato da alcune vignette, ed era così, più uno scherzo, ma insomma, poi in qualche modo con la fisionomica aveva davvero parecchio a che vedere. Un'analisi scherzosa di alcuni personaggi politici, di attori, potrebbe andare bene anche oggi. Non possiamo, che siamo in par condicio e quindi non possiamo chiaramente fare questa analisi, no. Ma sarebbe molto divertente. Facciamo così, dopo le elezioni lo faremo, adesso non possiamo ovviamente. Parliamo in generale di tratti della fisionomia, che in realtà rivelano delle caratteristiche della personalità. Non è una scienza, ovviamente questa è una disciplina e quindi c'è molta differenza in questo senso, è un po' come l'astrologia, no? Se si vuol credere, sì, o meno. Guarda che nel 500, ecco, veniva insegnata alle università, poi insomma il tempo è passato e il neopositivismo ha cambiato le carte in tavola. Sai, l'astrologia si insegna appunto pseudoscienza. Sì. L'astrologia si insegna anche in qualche università francese, per esempio, ma in Italia non è così. E quando parliamo di questo argomento nel riposo del guerriero, non sai quanti messaggi ricevo, dicendo: ah, ma di cosa parlate ancora di queste cose, eccetera. Però sì, una certa propaganda intellettuale è spesso molto più forte di quelle che sono determinate zone di approfondimento e di indagine del pensiero, che però non dovrebbero mai essere imbacuccate, incatenate o impalettate da alcuni pregiudizi, mettiamola in questa maniera. Io non ci vedo assolutamente niente di strano, perché ogni cosa che si presta alla speculazione apre la mente e ci rende anche più ricchi da un punto di vista dell'intelletto, ben venga. Ecco, certo, si fa discutere. Allora, è chiaro che, insomma, volenti o nolenti, ci sono caratteristiche fisiche che non si possono nascondere e che comunque qualcosa ci dicono. Anche noi, insomma, ci caschiamo nel bene e nel male, vediamo una persona con delle caratteristiche fisiche che non ci piacciono o ci in qualche modo ci mettono ansia, e quella persona o non ci piace, oppure diciamo ah, quello lì ha la faccia da ladro, faccio un esempio, e quello lì ha la faccia da assassino, poi magari assassino non è per niente, anzi senza il magari, però ci sono caratteristiche invece che sono state nel corso degli anni identificate, scritte e in qualche modo accertate, o mi sbaglio? Allora, accertate no, perché come abbiamo detto è un territorio di indagine abbastanza scivoloso e agli effetti non c'è mai niente di certo, sì. Ma ripeto, parliamo di pseudoscienze o di scienze dell'osservazione alle quali si associano anche altre forme di sapere come la meteorologia o come la statistica. Ecco, allora facciamo non qualche sono assolutamente scienze esatte. Cioè, ecco, facciamo qualche scienza esatta. Questo è un grande campo, ma non entriamo in questo campo perché ecco, cominciamo. Noi entriamo in questo campo. Allora, benissimo. Facciamo allora, invece qualche esempio. A proposito di politicamente corretto, noi non riusciamo più a declinare con spontaneità e con la sincerità che contraddistingueva l'osservatore soltanto di qualche anno fa, perché il politicamente corretto ci ha imbalsamati in una categoria sociale ben definita, cioè quella della persona che deve fare molta attenzione prima di esprimere un giudizio, fosse anche un concetto di largo respiro. Quindi poi la tesi che io esprimo nel mio libro, nel libro di prossima uscita, ed è questa in sostanza: noi che non abbiamo più l'abitudine, il costume di dire con questa fisionomica un po' paesana, da villaggio, ma guarda quello che faccia da stupido, ma guarda quella lì che faccia da ragazza poco per bene, e via discorrendo, ma che faccia da scemo, ma che faccia cavallina, ecco, questo non lo diciamo più, ma se andiamo per via del politicamente corretto, ma se andiamo al cinema o al teatro, in questi luoghi ritagliati, in questi templi, perché la parola tempio indica, viene dal greco e significa proprio spazio ritagliato, in questi spazi particolari dove si celebra, dove si ritualizza lo spettacolo, e quindi usciamo dalla quotidianità, ritroviamo antropologicamente queste valenze e riusciamo a dire, ecco, sicuramente quello ha la faccia da traditore, oppure quella c'ha un aspetto da poco di buono, o quell'altro indubbiamente non è una persona acuta e ha fatto malissimo l'amico, mettiamo il protagonista, a fidarsi perché prima o poi gliene combina. Quindi ritroviamo da un punto di vista antropologico quelle eco, no? Che appartengono alla nostra natura e che invece il sociale di moda in qualche modo ha completamente sterilizzato. Ecco Guido, ascolta, puoi farci qualche esempio, così tanto per ricordare degli elementi che magari abbiamo dimenticato, non so, adesso ne dico uno a caso: gli occhi molto vicini, il naso adunco, perché di solito allora, poi qui noi andiamo proprio a quel tipo di fisionomica cara che devo dire al Giovan Battista della Porta o più ancora a Joan Caspar Lavaterra, a cui dobbiamo la morfopsicologia, quindi questa visione dinamica, no, della fisionomica, perché non dobbiamo dimenticare che la fisionomica moderna non è una fisionomica, uno studio di fisionomica statica. Fisionomica significa lo studio della natura, ecco, delle leggi naturali che governano in questo caso l'uomo nel suo comportamento in senso generale. Okay? Quindi, certo, mi viene in mente lo studio che ha fatto il mio amico Battiato, ecco, sulla fisionomica, ha scritto una canzone meravigliosa, appunto, dal titolo Fisionomica, e prende in esame la mano adunca, prende in esame uno degli aspetti che forse meno incidono nell'osservazione, ma è veramente fondamentale, l'arco sopraccigliare, l'arcata sopraccigliare. Ci sono delle donne che hanno queste arcate meravigliose che ricordano la regina Cleopatra, che sono la sintesi stessa della sensualità, basta quello. Naturalmente gli occhi hanno la loro importanza, insomma, il fatto che il volto sia lo specchio dell'anima, lo diceva anche Oscar Wilde quando diceva che una maschera ci dice molto di più di un volto qualsiasi, e noi siamo ogni giorno in qualche modo tenuti o costretti a indossare non una ma 100, 1000 maschere. Ecco, anche per nascondere, esatto, le cose che vorremmo non si sapessero di noi, ma che invece a quanto pare trapelano. Poi esatto, perché potremmo avere scritte direttamente sul volto. Allora Guido, io ti ringrazio, poi ci risentiremo quando poi uscirà il libro, credo in tarda primavera, se non mi sbaglio. Bravo, che per il momento rimane un segreto. Non diciamo niente. Bella sorpresa. Perfetto, grazie, grazie Guido Guidi Guerrera, buona domenica, ciao. A te, grazie. Grazie. Continuo a leggere anche i messaggi, ne voglio leggere uno in particolare. Quello che state dicendo non vale per chi studia o si occupa di calligrafia, però è ovvio, la calligrafia è la grafia studiata, quella che deve seguire delle regole, e quindi è chiaro che non la prendiamo in considerazione. Infatti stiamo parlando di grafologia. Prima ho detto perito calligrafico perché le perizie si chiamano perizie calligrafiche. Anche se, però mi correggeva proprio Candida, adesso si chiamano perizie grafologiche, sì. Perché così non c'è più questo, sì, dubbio. Questo dubbio. Mi sembrava ovvio, ma insomma non lo è per tutti. Ultimamente, mentre scrivo, inverto le lettere. Inverto le lettere, anche io ogni tanto lo faccio, inverto le sillabe addirittura. Sì, ma tanto io non leggo quello che mi scrivono, io guardo il segno grafologico, quindi... per scrivere anche delle stupidaggini, quindi, non... cioè, forse anzi anche quella, la voglia di finire. Sì, magari io salto delle parti. Bisogna vedere tutti gli altri segni. Certo. Allora, sulla firma, siccome stiamo parlando di firme, ci sono tante cose, per esempio... Aspetta, perché sono arrivati talmente tanti messaggi che ho perso quelli che volevo leggere. Bene, sulla firma di qualcosa tu, perché sono arrivati un sacco di messaggi nel frattempo e ho perso quelli sulla firma. Vi faccio un po' di esempi. Sì. La firma innanzitutto è l'io sociale, quindi una persona come si vuol presentarsi all'altro, spesso è abbellita con svolazzi di rigore, mentre il testo è l'io privato. Se la firma è uguale al testo, significa che la persona è uguale sia nel privato che nel sociale. Faccio alcuni esempi. Sì. Io faccio la mia firma, io cosa faccio? Leggo il nome e il cognome rappresenta la figura paterna, quindi vuol dire che c'è un forte legame con il mio papà, anche se non c'è più, è da lassù che mi guarda. Un giorno ho fatto questo test e l'ho fatto fare anche altre persone che leggono nome e cognome, ho detto: dai Candida, stacca la mano e scrivi Livatino, vi assicuro che sono stata male, non ce l'ho proprio fatta. Vedete come già emerge proprio il nostro io, quello che noi sentiamo dentro, il nostro mondo interiore, anche solo attraverso una firma. Firmo, le iniziali sono più grandi, il resto del nome l'ho scritto per intero e leggibile, non trovo una sigla che mi soddisfi, l'iniziale del nome scende nel rigo inferiore. Solo del nome, sì. Dice. Beh, l'iniziale grande significa che c'è anche in questo caso una figura paterna magari vissuta in conflittualità. La discendente vuol dire che sta passando poi non a caso, se nel nome della signora che ha scritto, che rappresenta appunto il suo io, sta attraversando un momento particolare della sua vita, c'è un problemino da risolvere. Candida, per un attimo adesso tu non fai più la grafologa, sì? Per un attimo tu sei una castista. Devi scegliere l'interprete di un film, come recitava una vecchia canzone, e non so, un ladro, come te lo immagini? Dovendo scegliere dei tratti somatici, sì, un ladro come deve essere, secondo te? Lo sguardo sì. Penetrante, un po' grintoso, insomma, fa alto, paura basso. Guardare. Basso, moro biondo. Moro nero. Ecco, va bene. Roberto Bigherati, l'assumiamo come castista, la Livatino o le facciamo rimanere grafologa? Forse è meglio che rimango grafologa. Ciao, buongiorno, buona domenica Roberto. Ciao, buongiorno a tutti. Cosa facciamo? La promuoviamo o mica tanto? Perché mai forse i canoni sono cambiati, non lo so. Diciamo che il ladro da cliché è una cosa, il ladro dipende da che tipo di ladro si cerca. Certo, allora intanto Roberto Bigherati è un casting director e quindi è un ruolo fondamentale, perché Roberto deve trovare i volti giusti per rappresentare dei caratteri, quindi delle personalità, che a volte si rifanno all'immaginario collettivo, però a volte no. Come funziona, Roberto? Ma sì, dipende ovviamente da... si segue sempre una sceneggiatura, una storia, per cui dipende dal... dal carattere del personaggio che è descritto nella storia dall'autore, o comunque anche, diciamo, si fanno delle riunioni, se ne discute con il regista. E la cosa bella è che a volte si pensa a un personaggio in una determinata maniera, con una determinata fisicità, e poi quando si fanno i provini cambia completamente, diciamo, il... perché trovi la persona che possa rappresentare quel carattere, e anche però non corrisponde a quello che ci si era immaginati. Funziona così? Sì, assolutamente sì. Una volta mi è capitato con il film di Carlo Verdone, che praticamente stavamo cercando un'attrice italiana, e poi invece abbiamo trovato un'attrice spagnola che era Raquel Sueiro per il film Ma che colpa abbiamo noi. E io quando l'ho vista ho detto, cioè, può essere giusta per il film, cioè, sì, certamente nel ruolo, nel personaggio. L'unico problema è che non era italiana. Infatti ne ho parlato con Carlo l'ha vista, gli ha fatto un provino, insomma, abbiamo fatto un provino insieme, e gli è piaciuta, e alla fine ha giustificato nella storia ovviamente il fatto che fosse spagnola, e è cambiato completamente il personaggio, per cui da italiana alla fine è diventata un'attrice spagnola. Ecco, però avete usato lei perché lei andava bene. Senti Roberto, ci sono dei, visto che parliamo oggi di tratti a questo punto che non si possono nascondere, i tratti fisici non si possono nascondere, ci sono dei personaggi che però devono per forza ancora oggi avere quelle caratteristiche? Il cattivo, per esempio, non so, sì, deve essere appuntito ancora oggi oppure è cambiato, non so, come funziona? No, ma quello, diciamo, il cinema, anche la televisione, soprattutto la fiction, insomma, si racconta un po' per cliché, perché non c'è sempre tempo di raccontare un personaggio, per cui a volte si va per cliché. Ovviamente l'impiegato di banca deve essere una persona, comunque, diciamo, in qualche maniera se lo immagina borghese, senza segni sul volto, diciamo, senza troppe rughe, perché a differenza magari di un contadino che deve lavorare in campagna e logicamente dovrà avere la pelle un pochino più segnata, più vissuta, più rovinata dal sole, diciamo, ci sono degli elementi imprescindibili quando quindi si racconta un personaggio. Perché l'esperto di computer deve avere per forza i capelli strani, gli occhiali e magari i guanti sulle mani, quelli senza dita, perché sennò non è un esperto di computer? Ma perché è un po' quello che è nell'immaginario collettivo. Ma non esistono, non esistono, è solo nell'immaginario collettivo, ma non esiste nella realtà. Infatti non deve essere sempre così l'esperto di computer, per cui voglio dire, quello è quello che uno si immagina, altrimenti se anche tu non te lo immaginavi non mai avresti fatto questa descrizione. Ecco, esatto, no, perché li vedo e mi innervosisco, solo per quello, quando rivedo mi innervosisco, ecco perché te l'ho chiesto. Il riposo del guerriero. Con Roberto Bigherati, casting director, stiamo cercando di capire quali sono i tratti imprescindibili che caratterizzano determinati personaggi. Roberto, allora, visto che ti ho chiesto prima dell'esperto di computer che poi non rappresenta la realtà, ci sono altri personaggi che nell'immaginario sono in un certo modo che però nella realtà non è che si vedano poi così tanto? Ma diciamo sì, ci sono, per dire, se uno si immagina dei lavori particolari, ad esempio un idraulico, non è detto che l'idraulico debba per forza essere una persona che abbia una certa fisicità, una certa, eppure nell'immaginario collettivo, se uno si immagina un idraulico, si immagina praticamente una persona molto virile, molto diciamo, ecco, tipo come il meccanico, ad sì, esempio, Desperate Housewives, il personaggio, non so, della fiction, dove lui è bellissimo e molto, sì, attraente ovviamente, e poi fa l'idraulico, quindi le donne se lo contendono a colpi di gocce, di tubi che perdono acqua ovviamente, e quindi tu dici esistono comunque dei cliché che bisogna rispettare. Cos'è invece cambiato completamente nel corso degli anni come cliché? Cosa è cambiato completamente? In realtà sono cambiate le età. Una cosa che mi colpisce tantissimo, sì, sono cambiate le età, perché adesso vai a fare un cast per una, non so, per una ragazza di 15 anni e le 15 anni sembrano tutte che ce n'hanno 18. sembrano tutte magari, perché ovviamente sono, non, insomma, le età sono cambiate tantissimo, invece mentre magari va a cercare un cinquantenne e il cinquantenne non rappresenta il cinquantenne, perché comunque con le cure, con l'età che ovviamente si allunga, sembra un quarantenne, un quarantacinquenne, per cui devi aumentare l'età per rappresentare l'età che ovviamente... Certo, tu cerchi un sessantenne per rappresentare un cinquantenne e via scendendo, insomma, questo è un po' quello che succede, è stato molto chiaro. Allora, se volete, se avete qualche curiosità, vi do il sito che è www.rbcasting.com, che sta per Roberto Bigherati, e poi potete trovare anche le informazioni su di lui. Ti ringrazio molto, Roberto, grazie. Un'ultima cosa, sì, come no, certo. Utile più che altro anche per gli artisti, sì, perché ovviamente le ricerche casting le facciamo tutte attraverso il sito. Adesso stiamo preparando il film di Pieraccioni, altri film, e le ricerche avvengono tutte sul sito, perché ovviamente c'è un'organizzazione. Si parte da lì. Sì, parte tutto da lì. E questo è molto interessante. Poi avremo occasione anche di parlare del mestiere a questo punto e di come si fa, perché la ricerca di capire anche come introdursi nel mondo del cinema, in questo caso, interessa a molti. Insomma, Roberto, grazie per quello che fai. Noi non ti vediamo, ma vediamo chi scegli e quindi, o chi proponi, comunque poi il regista ha l'ultima parola, e ti vediamo quindi attraverso i personaggi che scegli. Grazie ancora, buona domenica. Grazie a voi, buona domenica. Ciao. Allora, Candida, abbiamo... Dopo io e te parliamo, sembrava una minaccia, te parliamo fuori, no, dopo, sai perché, ho il professore Andrea Fiorenza al telefono. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buona domenica. Grazie, psicologo e psicoterapeuta, ultimo libro, Quando l'amore non basta, edito da Rizzoli, e siccome abbiamo pochi minuti prima del GR, io volevo chiederle, Fiorenza, quali sono i sentimenti che proprio non riusciamo e non possiamo nascondere, non ce la facciamo, per quanto ci si provi, non so, quali sono quelli che si vedono per forza? Beh, intanto sono le emozioni, non sono i sentimenti, perché la prima differenziazione che bisogna fare, sì, è capire la differenza tra le due, appunto. Le emozioni non le possiamo nascondere, al massimo le possiamo attenuare, il più delle volte le possiamo attenuare dichiarandole, perché nel momento in cui la dichiaro un'emozione, non ho più bisogno di controllarla e quindi riesco ad attenuarla. I sentimenti in realtà, che sono stati affettivi, per cui che hanno più a che fare con la coscienza, posso controllarli. Quindi le emozioni no, perché sono delle reazioni fisiologiche, degli stati mentali e fisiologici, di solito associati a delle modificazioni psicofisiologiche. Una cosa molto complessa che in realtà si può tradurre semplicemente in questo. C'è uno stimolo esterno che ci attiva una reazione, può essere uno stimolo pauroso, noi abbiamo subito una reazione fisiologica a cui diamo un nome. Quindi l'emozione non è altro che una reazione a cui noi diamo un nome, che è comune a tutte le culture, compresi gli animali. Anche gli animali provano emozioni. Sì, ecco. Ma non provano sentimenti, perché non hanno la coscienza. Ecco, quindi un'emozione non è mai occultabile. L'emozione qualche modo emerge. No, e possiamo chiamarla l'ossessione di Stendhal, lo scrittore francese, sì. Stendhal, appunto, che non è la sindrome di Stendhal, ma è l'ossessione. Lui scriveva nei suoi diari che spesso cercava, quando era in mezzo agli altri, di essere spontaneo. Sì. Stendhal era un uomo che soffriva di piccole manie, ossessioni, quali appunto la difficoltà a gestire le emozioni in pubblico, e mi aveva fatto di questo una sua lotta, che però purtroppo per lui finiva sempre miseramente. Non è riuscito a combattere, certo. Perché non riusciva a combattere, lo faceva dire anche, l'ho letto in un suo romanzo, una protagonista, un personaggio che diceva: spesso do buoni consigli a me stessa che poi non riesco a mantenere, ecco. Il più delle volte noi cerchiamo di dare buoni consigli rispetto alle emozioni che vorremmo o non vorremmo trovare in pubblico, ma è una lotta il più delle volte persa. L'ultima domanda, velocemente, l'insicurezza è un'emozione o un sentimento? L'insicurezza è una sensazione più che... Sì, e quindi dove possiamo inserirla fra queste due cose? lo possiamo inserire sicuramente in un obiettivo di crescita che noi ci diamo rispetto al fatto che vogliamo raggiungere determinati obiettivi comportamentali quando siamo in mezzo agli altri. Il problema nasce sempre nell'interazione, come scriveva l'esistenzialista Jean-Paul Sartre: il nostro inferno sono gli altri, quando siamo in mezzo agli altri. Eh sì, è lì, siamo male, è lì che emerge tutto, infatti è proprio così. Andrea Fiorenza, la ringrazio, c'è il GR tra pochissimo, ricordo ancora il libro Quando l'amore non basta, e mi raccomando, differenza fra emozioni e sentimenti. Sentimenti possiamo anche celarli in qualche modo, ma le emozioni mai. Grazie ancora, professore. Grazie a voi, buona domenica. Voi continuate a scrivere i vostri messaggi, adesso ne selezioneremo qualcuno e li proporremo a Candida. 349-238-6666 il numero per i vostri sms, e poi il numero verde, perché alle 11:40 circa giocheremo con Modigliani in 24 minuti, per voi la possibilità di portarvi a casa il catalogo della mostra che sarà a Milano e due biglietti d'ingresso. Il numero verde per prenotarvi: 800-24-0024. Il riposo del guerriero. Alle 11:07 minuti, ancora buona domenica da Stefano Gallarini, continua il riposo del guerriero qui su Radio 24. Oggi si parla di ciò che non possiamo nascondere. Abbiamo visto i tratti somatici, il linguaggio del corpo, e abbiamo visto anche la differenza fra emozioni e sentimenti. I primi non si possono, le prime non si possono nascondere, le emozioni invece i sentimenti sì, possiamo anche in qualche modo camuffarli. Ma la nostra ospite in studio è Candida Livatino, esperta grafologa e anche perito, e con lei appunto stiamo un po' cercando di analizzare le scritture. Sono arrivati molti messaggi. Valgono ancora alcuni elementi degli studi di padre Moretti? Il suo libro era piacevole e interessante, scrive certo. Andrea. Il padre Girolamo Moretti è padre della grafologia scientifica, infatti il mio metodo è il metodo morettiano. Quindi valgono ancora, certo, e come. Valgono. Fatta la firma senza staccare sotto, traccio una linea, poi stacco. Questo l'avevo letto forse prima, sì, con la prova della firma, prima. Scusami. Mio figlio Matteo, 14 anni, scrive sempre in maniera illeggibile. Le A sembrano O, salta gli accenti, non mette i punti alla fine delle frasi. A volte non firma i suoi elaborati a scuola e infine scrive spesso a matita. È preoccupante? No, assolutamente no. È un po' come mio figlio Matteo, la stessa cosa. È un ragazzino che insegue il pensiero anche lui, quindi la velocità del pensiero, e fa fatica a scrivere bene. Buongiorno, la mia scrittura si è modificata moltissimo negli anni. Ho fatto di recente un trasloco ritrovando vecchi quaderni e diari. È diventata molto più irregolare e ampia. La firma invece non è cambiata molto. Succede a tutti. Può succedere, certo. È la persona che è cambiata, ma i segni cardine comunque rimangono, perché i segni del vissuto rimangono. Quindi bisognerebbe vederla per dare una definizione ben più precisa. Allora, alcuni elementi invece curiosi che vi raccontiamo, perché prima Candida mi raccontava delle G. Il punto G, ecco perché scrive punto G, no. Ci sarà un motivo, quindi è quello il vero motivo. No, io parlo del simbolismo spaziale. Sì. Provate a pensare alla parola gli. La parte superiore della lettera, in quel caso la L, significa rappresenta il superio, quello che noi riusciamo a gestire col cervello, perché nella parte alta del nostro corpo ci sta appunto il cervello. Allora, più rendiamo più gonfia o alta? No, adesso la L. Arriviamo. No, perché anche la L ha la un L è la fantasia. Ah. Quindi oltre che insomma rappresenta il cervello, perché col cervello fantastichiamo. Quindi sì. Più grossa l'asola, più una persona fantastica. La parte media. E invece più saliamo con la L, più andiamo in alto, diciamo così, sempre, e più abbiamo, più usiamo il cervello, sì, tendenzialmente. La razionalità. Sì. La parte media, sì. In quel caso pensate alla G, la pallina della G, è il nostro io, dove ci sta il nostro cuore. Quindi rappresenta l'io, l'es, il momento. La parte inferiore della lettera, in questo caso appunto la G, come diceva Stefano, più la sola è gonfia, più la persona è sessualmente portata, quindi ha una forte carica sessuale. Quindi rappresenta la sessualità, l'es, l'irrazionale, quello che non riusciamo a gestire col cervello. Più gonfio, più una persona ha una forte carica sessuale. Tu mi hai parlato prima di un personaggio, ma sì. C'è sul tuo libro? Sì, non c'è. Albano. Quindi possiamo dirlo. Certo, ecco, Albano ha una G, la sola gonfia della G inferiore, e devo dire che lui poi me, quando ha ricevuto il libro, mi ha detto: ah sì, io sono così, uomo del sud sono, ecco, quindi, ti ha risposto forte così. Carica sessuale. Ecco, va bene, allora sì. Attenzione anche a questa gigonfia, e se non l'avete voi gonfiate dallo stesso, almeno bleffate, uno può anche bleffare in quel senso, no? No, siccome c'è un ascoltatore che dice: ma cosa state dicendo? Io posso cambiare calligrafia quando e come voglio perché faccio il grafico, ho capito, ma non ci interessa quello. No, non c'entra assolutamente. Stiamo parlando delle emozioni, appunto, sì. Quella, la grafia che spontaneamente emerge. Allora, tu nel tuo libro, I segreti della scrittura, edito da Sperlin e Kupfer, faccio sempre fatica a pronunciare questo cognome. Sì, non è facile. Non è facile, no? E tu prendi spunto anche da personaggi famosi. Ti sei fatta lasciare, hai recuperato, hai rubato, tra virgolette, gliel'hai chiesto. Come, no, cosa Stefano, hai fatto? Io ho lavorato per ben 2 anni, ho fatto Sipario, che era, sì, stato calco del TG4, analizzando appunto i personaggi del mondo della città, quindi materiale ce l'avevo, sì, certo. E quelli più curiosi, che magari non mi ti aspettavi? Mi ha colpito molto il Christian De Sica. Christian De Sica è la firma, vi ricordate, vi ho parlato prima della firma, che è l'io sociale. Christian nel firmare ha fatto un Christian che nessuno legge, come se mi volesse dire: guarda, ci sono tanti Christian in giro, io sono uno di tanti. Però poi ha fatto una freccia e ha scritto in maniera veramente leggibile De Sica, quindi come se ci volesse dire: vabbè, io sono un Christian, però sono figlio del grande Vittorio, e De Sica è facilmente leggibile. Però in questo caso rappresenta un grande legame con il papà, quindi col, sì, cognome, quindi praticamente come se lui idealizzato, si un indietro, padre idealizzato, Stefano. Ciao, sono Mancina. Scrivo le parole senza mai staccare la penna, anche il puntino sulla I, un ghirigoro verso l'alto a sinistra. La finale finisce con baffo in basso e verso destra. Lo so che non è chiaro, lei dice. Non è chiaro, però io posso già dire qualcosa. Il segno è attaccata, significa che è una persona che vuole legarsi all'altro. Perché la parola, facciamo un esempio, Stefano, S è l'io, la T è il tu, quindi leghi la parola. E sei anche una persona che ama la logica. In tutto ci deve essere una logica. Chi è l'attaccato è una persona che ama la logica. La mia riga su foglio bianco non è mai dritta, ma tende sempre verso il basso a destra. Ecco, vuol dire che la persona sta attraversando un momento particolare della sua vita, quindi non ha la forza d'urto. Ecco, questo è interessante, no? Scendere verso destra o salire, no? All'ascendente, ecco, sì. Oppure dritti. Oppure dritto, ma viene in rigo. Ok, chi mantiene il rigo? Una persona che diciamo che non ha l'umore altalenante, sì, esatto. Si mantiene, ecco, sempre nella... Il fatto di salire ovviamente ha prospettive ottimismo, verso il futuro, ambizione, sì, sì, ambizione, ottimismo. Scendere invece è un momento difficile. È di solito un momento oppure fa proprio parte della personalità e quindi non so, si è tendenzialmente pessimisti, se si continua sì, di solito comunque è un non momento. È così. Io faccio un esempio che lo, sì, faccio spesso. Una ragazza è venuta farsi analizzare da me, l'aveva appena lasciato il fidanzato dopo 10 anni di convivenza, era disperata, piangeva. Io ho detto: guarda in giro, quanti uomini ci sono e troverai altri. No, io voglio lui, sono innamoratissima di lui. Beh, questo è il discorso. Prova che si a scrivere fa sempre, e andava verso il basso. Dopo, sì, 2 mesi è ritornata da me, praticamente non l'avevo riconosciuta, ho iniziato a scrivere, andava verso l'alto. Ho detto: beh, cos'è successo? Semplicemente aveva trovato un altro fidanzato. Mai disperare, quindi. Mai disperare. Funziona al contrario? Cioè che se scrivo verso il basso, no? Sì. E quindi vuol dire che sono in un momento così, sì, posso sforzarmi di cominciare a portare la mia grafia in alto e quindi automaticamente non funziona assolutamente. Peccato, c'è, però, il condizionamento, dai, che senso ha? No. Ma magari è un condizionamento, alla fine mi condiziono talmente tanto che penso, no, poi, Stefano, di non funziona proprio. Pensavo di aver trovato la panacea no. Neanche questa volta, no. Allora, nome e cognome iniziano con la F nella mia firma, sono diverse, ha un senso? Bisogna vedere qual è la grandezza, ecco, che con diversi in qual che è senso? Più importante, se quindi, più, per le due. Più grande è, se è il cognome vuol dire che è una figura paterna molto, molto forte. Senti, questo messaggio, sì, di Lumi, non ho capito se è curioso, siccome c'è scritto Lumi, punto di domanda, non ho capito se è la firma oppure vuole dei chiarimenti. Forse dei chiarimenti, sì, forse sì. Immagino. Allora, ho depositato la firma da un notaio per una procura, ma ho fatto notare che non riesco a fare 2 firme uguali, però riconosco le firme come mie. Ecco, questo è vero. Quando tu ti fa un documento. Io detesto quando c'è scritto firmare in modo leggibile, ma non è una firma. Se io scrivo in modo leggibile non è la mia firma, è stampatello. Deve essere cosa fatta di getto. Appunto. Non è analizzato, si può analizzare. Peccato che ce l'abbiamo nei documenti. Comunque io riconosco che è sempre la stessa persona. Tu sì. Però non puoi essere il perito per riconoscere. No, certo. Allora certo. Io dico, il fatto che facciamo tante firme diverse, cioè non riusciamo a farla uguale, no? Significa qualcosa anche della personalità o non significa assolutamente niente? Siamo incostanti, siamo... No, magari dipende, se hai fretta, se devi fare firmare te, fai delle sigle, però cioè, non fa testo questo, è ovvio. Va bene, allora Candida, il nostro tempo è finito. Peccato. Qui purtroppo, cioè mio, tu magari no, però quello che gli ascoltatori in questo momento sì. Io voglio ricordare Candida Livatino, i segreti della scrittura, conosci te stesso e gli altri con la grafologia, professione di Mario Giordano, perché sì, anche lui si è ricreduto scettico, dopo quello che si è convertita alla grafologia anche lui, edito da Sperling. Io voglio ricordare il tuo sito, così se qualcuno avesse qualche curiosità, sì, può contattarti, che è www.livatinocandida.it. Il riposo del guerriero. Giochi e videogiochi. Anche nei giochi ci si nasconde, però bisogna essere molto bravi a tenersi nascosti, sennò se gli altri poi ci beccano e noi perdiamo, gli altri vincono. Ciao Andrea Ligabue, buongiorno. Ciao Stefano e buona domenica a tutti. Allora, da dove cominciamo a nasconderci? Allora, il primo gioco di cui vi voglio parlare oggi si chiama Mr. Jack. Sì. Ed è un gioco molto particolare per due giocatori, ambientato nel distretto di Whitechapel. Un giocatore interpreta Mr. Jack, quindi Jack lo squartatore, l'altro giocatore interpreta l'ispettore che cerca di catturare Mr. Jack. Il gioco avviene sulla plancia e ci sono 8 personaggi. Ogni turno vengono mossi 4 personaggi. Solo il giocatore che ha Mr. Jack sa l'identità, quale di questi 8 personaggi è in realtà Mr. Jack. Il suo scopo è riuscire negli 8 turni della partita a non farsi scoprire o a fare sfuggire il personaggio di Mr. Jack fuori dal distretto. L'ispettore invece deve riuscire ovviamente a scoprire quali di questi 8 personaggi è Mr. Jack e quali di questi personaggi Mr. Jack ovviamente a catturarlo. La cosa carina è che c'è un meccanismo durante il gioco tale per cui il distretto diventa man mano, perché la notte evolve, l'alba arriva, man mano i lampioni si spengono e quindi diciamo i personaggi possono essere alla fine di ogni turno alla luce, all'ombra, ed è l'unica informazione che Mr. Jack deve rivelare alla fine di ogni turno, cioè Mr. Jack è tra uno dei personaggi alla luce o tra quelli all'ombra, e l'altro giocatore ovviamente deve cercare di muovere i personaggi in maniera tale da, con questo discorso di luce ombra, andare a esclusione. Quindi è un po', scusami, è un po' un'evoluzione curiosa del vecchio Mastermind. Sì, diciamo che è meno matematico, è più gioco di Mastermind, però comunque è un gioco di profonda strategia, perché poi ovviamente uno, il giocatore che ha Mr. Jack, può riuscire o a non farsi scoprire o spesso può riuscire a vincere facendo scappare Mr. Jack dal distretto, quindi deve riuscire a metterlo in ombra nel turno precedente per poi farlo scappare. Ci sono tante dinamiche, poi gli 8 personaggi, ognuno ha qualche abilità particolare, quindi muovere un personaggio o un altro significa anche poter utilizzare un'abilità, ad esempio ce n'è uno che accende i lampioni, un altro che sposta i tombini, che sono dei passaggi segreti che possono essere utilizzati, il poliziotto che può chiudere alcune uscite del distretto, quindi diciamo un gioco piuttosto semplice come regole, si può imparare facilmente, ma molto molto strategico e a tema appunto mistero e persone nascoste. Interessante, Mr. Jack così si intitola, poi invece continuiamo a cercare di scoprire i colpevoli in un altro gioco, si chiama I Misteri dell'Abbazia. Cos'è successo? Sì, I Misteri dell'Abbazia è un'evoluzione del classico Cluedo. Diciamo Cluedo è un gioco molto famoso che tutti conoscono, che però ha secondo me dei limiti forti perché è fortemente legato alla fortuna e al tiro di dado. Nei Misteri dell'Abbazia il meccanismo è lo stesso, è avvenuto un delitto ambientato nell'abbazia dove è stato girato, diciamo dove è ambientato il romanzo Il Nome della Rosa, è avvenuto un delitto e bisogna scoprire quale dei monaci presenti nell'abbazia ha commesso il delitto. I monaci sono caratterizzati dall'ordine di appartenenza, cioè francescani, benedettini, oppure dal fatto se sono padri, novizi o maestri, e poi da delle caratteristiche, possono avere la barba, non la barba, avere il cappuccio, non il cappuccio, essere magri o grassi. l'indagine avviene all'interno dell'abbazia, quindi i giocatori si muovono e man mano devono ottenere queste informazioni, andare a esclusione e riuscire a capire chi è il colpevole. Chi ci riesce generalmente vince, dico generalmente perché durante la partita un giocatore può andare dal padre superiore e dire: io sono convinto che il colpevole aveva il cappuccio, perché non è un'informazione completa, però intanto dice questa informazione. A fine partita, se il colpevole aveva davvero il cappuccio, il giocatore ottiene dei punti. Quindi diciamo, un giocatore che riesce a fare delle ipotesi giuste durante il corso della partita può riuscire a vincere, anche se non è quello che alla fine identifica l'esatto colpevole. Chiaro, perché comunque acquista punti e quindi magari ha più punti di chi invece riesce a risolvere il caso, diciamo così. Esatto. Ecco, in questo senso, nei misteri dell'abbazia bisogna solo indovinare il colpevole o anche la stanza dove è stato commesso il delitto piuttosto che l'arma, come è con Cluedo? No, qua diciamo l'identificativo è solo il colpevole. Le stanze però dell'abbazia sono diverse e in ogni stanza generalmente si possono fare azioni particolari, cioè ci sono le cappelle in cui si può andare a pregare e ottenere informazioni da un giocatore, c'è la biblioteca che dà accesso a delle carte, che sono le carte libro che danno delle abilità particolari. Quindi diciamo la mappa in questo senso è varia perché ogni stanza dell'abbazia permette di fare azioni particolari. E però, quindi diciamo, indagare, certo, va solo individuato il personaggio colpevole, però ogni stanza permette di indagare in un certo modo e quindi di avere delle informazioni in più. Io volevo chiudere con te, Andrea, semplicemente accennando a un gioco molto famoso che è Indovina Chi e che anche in questo caso richiede la capacità di nascondere dei personaggi, di individuare diciamo quelli dell'avversario. È un gioco che diciamo al di là della sua semplicità è un gioco molto conosciuto, ha da un punto di vista logico-matematico una fortissima base, cioè i bambini giocando a Indovina Chi fanno un ragionamento, proprio il ragionamento deduttivo da esclusioni, cioè il categorizzare gli indiziati a seconda appunto di una categoria e cercare di fare una domanda che ti elimini il maggior numero di persone di questa categoria, quindi diciamo pur nella sua banalità, nel senso che è un gioco banale ma in senso positivo perché è semplice, possono giocare tutti, è un gioco che secondo me per i bambini ha delle potenzialità molto interessanti. Poi ne esistono mille varianti, dall'Indovina Chi classico, quello con i personaggi Disney, ce ne sono veramente tantissimi. Ecco, un po' come il Sapientino, no? Quei giochi intramontabili che continuano a esserci poi in versioni appunto molto diverse. Grazie Andrea Ligabue, il nostro ludologo, e quindi se volete cercarlo anche su internet basta che cerchiate ludologo e lo trovate sicuramente. Ci sentiamo domenica prossima e buona partita. Ciao. Ciao Stefano, ciao a tutti e buona domenica. Freezing cold in Ainsnight's Uso. Senti chi parla. Francesca Dragotto, la nostra glottologa, è presente anche oggi. Ciao Francesca. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora, c'è qualcosa che non possiamo nascondere, magari vorremmo farlo, ma non riusciamo. Che cosa? I tic linguistici, parole che dicono poco dal punto di vista informativo, quindi hanno un significato ridotto, ma che invece molto dicono dal punto di vista di chi le produce. Quindi ci dicono molto sulla personalità, sulle caratteristiche appunto di chi le utilizza. Sono la controparte linguistica e comunicativa di quello che accade sul piano del comportamento o con i movimenti che non si riescono a controllare, perché quello che caratterizza il tic linguistico, è l'incapacità di controllarlo. Tutti noi possediamo dei tic linguistici perché... Ora lo ridico così poi lo tagliate. Tutti noi possediamo dei tic linguistici, chi più chi meno, e c'è persino chi nel tic ha trovato o trova una riconoscibilità sociale da parte degli altri, perché spesso viene identificato con esso. Addirittura ci sono dei cognomi come Battilocchi che traggono origine proprio da un tic, in questo caso il fatto di battere ripetutamente le palpebre. Ora, tra le tante possibilità di interpretazione del tic, ne voglio però scegliere una in particolare, quindi non parleremo delle parole di plastica, ovvero quelle formule stereotipate che a causa dell'eccessivo uso hanno perso il proprio significato, anche perché ne abbiamo già parlato. Non voglio parlare degli intercalari, ovvero i praticamente, cioè vero. Anche perché quelli non sono dei tic, sono degli intercalari. Niente hanno a che fare col tic. Da quello che ho capito io, il tic linguistico sono parole che vengono inserite nel discorso ma che non hanno niente a che vedere con quello che si sta dicendo in quel momento, credo. Sì, però in un qualche modo anche l'intercalare è una sorta di tic, perché quello che li accomuna è l'incapacità del parlante di controllare, di gestirli. Il parlante non si rende, non si rende proprio conto di produrli. Però appunto noi non parleremo neppure di questo, perché oggi dedicheremo questi pochi minuti al disturbo o sindrome di Tourette, un disturbo neurologico, quindi non raro, che si manifesta con la presenza di tic improvvisi, veloci, ripetitivi, non ritmici, stereotipati, quindi di parole, nel caso appunto della manifestazione linguistica, prodotte senza uno scopo, che coincidono con parolacce, bestemmie, nomi di parti del corpo, in particolare parti sessuali o atti sessuali e ogni altro genere di turpiloquio che il parlante non riesce a controllare quando appunto è affetto da questa patologia. Ora, a questa patologia dedica un bellissimo capitolo di un volume il neurologo Oliver Sacks, che ha avuto modo di osservare un parlante affetto appunto da sindrome di Tourette. Però non vorrei spendere tante parole, vorrei lanciare un audio tratto da un film, quindi 30 secondi, per far capire meglio a chi ci ascolta in che cosa consista la sindrome di Tourette. Che succede? Stai bene? Mi dispiace. Sai, Dusso, la sindrome di Tourette è il motivo per cui ho queste reazioni incontrollabili. Non è tanto grave. Sì, niente di che, alla fine ci si abitua. Tasticolo! Colo! Tacca culo! Sai, ci sono dei posti dove non posso andare, succhiami la popa! Ma di che stai parlando? Allora, chiaramente, certo, non dà fastidio, non crea nessun problema, però dipende anche dalla situazione, quale possa essere. Non so se poi nel film questa sindrome è esagerata oppure può arrivare proprio anche a questi eccessi. Beh, nei casi più gravi arriva a questi eccessi, naturalmente c'è tutta una gradazione di sintomi che in casi meno gravi comprende disturbi dell'attenzione o disturbi ossessivo-compulsivi, però ecco la ragione per cui sono convinta che ascoltare questa parte del film in italiano gigolò per sbaglio abbia maggiore effetto che spendere tante parole sulla sindrome di Tourette è perché fa appunto, consente di rendersi immediatamente conto di quanto questa sindrome possa essere invalidante a livello sociale, proprio perché è difficile, vista l'incapacità del parlante di contenere quella produzione, appunto è difficile riuscire ad integrarsi pienamente nei diversi contesti della vita. Ora però dobbiamo dire una cosa, si tratta di una patologia che nulla a che vedere con la maleducazione di tante persone che del malvezzo e del turpiloquio fanno un habitus comunicativo. Lo dico soprattutto per rispetto di coloro che convivono con la Tourette, che si trovano costretti a scegliere o tra la perdita o comunque la compromissione della propria vita sociale oppure la possibilità di tenere sotto controllo il tic con dei farmaci che però come contraltare hanno quello di farli sentire meno se stessi, perché per chi soffre di questa sindrome l'improperio è una parte di sé. Ecco. Perché normalmente quelli che emergono sono proprio quel tipo di parole, cioè sono le parolacce e non altre invece, perché non sono parole normali? Perché il lessico interdetto, quindi tutto quello che all'interno di una certa cultura viene percepito come avente a che fare con il tabù, ha una potenza estremamente superiore a quella di tutto il resto del lessico. In qualche modo anche il cervello, anche la neurologia ci sembra dire questo, perché vedendo quali zone del cervello si attivano quando vengono prodotte appunto le parolacce o coprolalia, come si dice con un termine più colto o un termine tecnico, insomma, ci si rende conto che la zona del cervello che si attiva è nella parte destra, mentre normalmente siamo abituati a trovare le parole nella parte sinistra. Quindi questo è come dire che una parte di lessico, quello colpito dal tabù, è come se si fosse staccato e dislocato, passatemi il termine anche se naturalmente non è scientifico, in una zona diversa del cervello. È come se noi coincidessimo in qualche modo con il nostro tabù. E dico questo anche per un altro dato, i pazienti afasici, chi a causa di un trauma, di un incidente ha avuto la sfortuna o comunque si trova a convivere con una forma magari grave di afasia, l'incapacità di parlare, riesce comunque a pronunciare parolacce, bestemmie, tutto quello che appunto è tipico di un tic di chi soffre di sindrome di Tourette. Quindi Potremmo anche chiudere dicendo che in fondo c'è un po' di Tourette in tutti noi, e questo forse potrebbe aiutare a sensibilizzare nei confronti di chi soffre di questa patologia. E poi sicuramente giova anche far sapere che abbiamo nomi celebri che probabilmente hanno sofferto in misura minore o maggiore di questa sindrome. Ce ne sono tanti, infatti. Grazie Francesca Dragotto, buona domenica. Grazie a voi, a presto. Il riposo del guerriero. 11:34 minuti, il momento di non mangiare, adesso è troppo presto, è che ho già fame a quest'ora. Il gastronauta. C'è Filippo Aureggi in regia, mangerebbe sempre, per cui lui mangerebbe anche a quest'ora. Intanto lo saluto. Davide Paolini, ciao, buona domenica. Ciao, saluto anch'io Filippo che ha sempre fame, bene, sì, tra poco andrà a mangiare anche lui. Che cosa oggi? Cosa succede? Oggi potrebbe mangiare un bel piatto di spaghetti con alla carbonara e poi farsi una cotoletta alla milanese. Ecco, come mai sei così un po' romano e un po' milanese oggi? Beh, perché sono nazionale, sono nazional popolare, sì. E quindi cerco di conciliare un po' l'Italia in lungo e in largo. Come ti prepari a questo carnevale dal punto di vista gastronomico, Davide? Ma sai, il carnevale arrivano fritti a go-go da tutte le parti, vedi le bugie, vedi le chiacchiere che sono la stessa cosa, poi vedi i tortelli fritti, vedi le castagnole, insomma, devo dire che è un invito veramente alla golosità. Il carnevale deve essere così allegro e deve essere ricco, perché sai, il carnevale era il momento in cui è una, diciamo, una festa che nasce nel mondo rurale, quindi era un po' come risvegliare la campagna, quindi bisognava fare dei cibi ricchi, e il fritto è un cibo ricco, nel senso ricco per la pancia, insomma, da quel punto di vista. Sì, però sai, è anche molto bello, perché se guardiamo l'Italia, abbiamo detto prima nazional popolare, diciamo dall'alto verso la Sicilia, è incredibile quanti dolci di carnevale come cambiano, e in molti casi sono gli stessi, cambia solo il nome. Pensa alle chiacchiere, si chiamano cenci, sfrappe, meraviglias, bugie, insomma tantissime cose. E scavando ho scoperto, me lo sono chiesto, perché si chiamano chiacchiere, perché bugie? Beh, insomma, perché sono così leggere le chiacchiere, che volano via, il dolce così come le chiacchiere. E molti invece dicono che il nome deriva dalla forma, perché ad esempio stracci, cenci. In quel caso sì, sembrano dei pezzi di stoffa. Sì. Ecco, Davide, così, da un punto di vista di gusto tuo, personale, strutto o d'olio per friggere? Io non ho dubbi, non lo faccio male. Neanch'io, dicerio, però sono per sentire te. I dolci di carnevale vogliono lo strutto, oh, non c'è niente da fare. È come con la piadina, no? Ci vuole lo strutto. Sì, è come anche le patate con lo strutto sono una cosa completamente diversa. E appunto perché erano ricche, perché è una festa rurale, sicuramente nasce dallo strutto, perché lo strutto era quello che rimaneva dal maiale dall'inverno, quindi si era appena macellato il maiale e si aveva lo strutto disponibile, quindi nasce veramente per questo. Poi ci sono anche molti piatti carnevaleschi in giro per l'Italia, sicuramente, ma anche quelli sono molto ma molto ricchi. E voglio fare una citazione particolare: la regione più ricca in assoluto di varietà e di carnevali è la Sardegna. Specialmente la Sardegna rurale, quella della Barbagia, quella nell'interno, ogni paese c'è un carnevale completamente diverso, arrivando al massimo al carnevale di Mamantones a Mamoiada, dove è una festa incredibile, con queste maschere scolpite nel legno nere. E Mamoiada c'è un ottimo cannonau anche, quindi si festeggia molto bene in quella zona lì. Ecco, quindi festeggiamo il carnevale come si deve, mi raccomando, le chiacchiere vanno fritte nello strutto. È così, e poi semel in anno licet in sanire, quindi credo che questo sia veramente il motto latino adatto al carnevale. Grazie Davide Paolini, buona domenica. Buona domenica, ciao, buon carnevale, ciao. Siamo pronti a giocare invece adesso con Modigliani in 24 minuti. Modigliani in 24 minuti. Per voi la possibilità di portare a casa in anteprima, fra l'altro, il catalogo della mostra Modigliani, gli artisti di Montparnasse, a Milano, a Palazzo Reale dal 21 febbraio, e anche due biglietti d'ingresso, ammesso che riusciate, come sempre, ad associare una delle opere di Modigliani o una delle opere degli artisti di Montparnasse, che comunque vi dirò quando c'è l'opera di uno o quando l'opera degli altri, e associare, dicevo, una delle loro opere alla canzone che vi farò ascoltare. Il numero per prenotarvi 800 24 00 24. Come sempre cercherò di aiutarvi il più possibile, e la prima canzone da ascoltare, quindi il primo indizio, è questo. Ehi, è partita per le spiagge, sono solo qua su in città, sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro il pomeriggio, è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Canzone molto conosciuta di Paolo Conte, interpretata in questo caso da Adriano Celentano, in qualche modo si lega a una delle opere di Modigliani. Quale opera? Tra poco ci risponderà Fabio, ma prima di sentire Fabio, una pillola che ci racconta l'artista. Amedeo Modigliani è stato un personaggio veramente romanzesco, tant'è che fin dal giorno dopo la sua morte è fiorita una grande serie di libri, di biografie e poi anche di film dedicati a lui, l'ultimo dei quali è del 2004 con Andy Garcia nella parte di Modigliani nasce nel 1884 a Livorno e nel 1906 parte per Parigi. La Parigi in cui arriva è la Parigi dei grandi pittori, degli impressionisti che ormai sono vecchi, ed è anche la Parigi di Otriglio, di Kiesling, degli intellettuali come Gertrude Stein e Jean Cocteau, ed è la Parigi di Picasso. Tra Picasso e Modigliani nasce un'amicizia che è anche una forte rivalità, ma Picasso tiene d'occhio questo italiano un po' maledetto, dedito al vizio, all'alcol, che conduce una vita notturna, e ad un certo punto si preoccupa per Modigliani al punto che decide di farlo andare a trovare Renoir, che vive nel Midi della Francia, in una grande villa meravigliosa che si è comprato con i proventi delle sue opere. Renoir e Picasso cercano di convincere Modigliani che è possibile vivere bene di pittura, quindi condurre un'esistenza regolare vendendo le proprie opere. Ma Modigliani rimarrà sempre un irregolare e si condurrà da solo verso la morte. Lui soffre già di tubercolosi fin da ragazzino e tutti i suoi vizi e la sua vita bohemienne in povertà e in miseria lo condurranno a morire molto giovane, prima di compiere i 36 anni. Picasso invece gli sopravvive, ma si dice, la leggenda vuole, che sul letto di morte, molti anni dopo, Picasso abbia sussurrato le parole Modigliani. Grazie a Pia Capelli per questa pillola su Modigliani. Fabio da Milano, ciao, buona domenica. Ciao, buona domenica anche a voi. Intanto voglio ricordare che le risposte via SMS o via mail non valgono, cioè se volete scrivetele così per curiosità, però vi dico che non valgono. E detto questo, allora, c'è un'opera di Modigliani, ce ne sono diverse che possono avere a che fare con questa canzone, ma io vorrei sentire proprio quella di opera. Esatto, allora, per darti una mano parliamo di una giovane donna, e quindi l'opera come potrebbe intitolarsi? Ma io penso che sia La bambina in azzurro. Non è La bambina in azzurro, è una giovane donna, ma non è una bambina. Vabbè, Fabio, ti ringrazio però, cosa devo fare? Mi dispiace, pensavo che rispondesse in modo corretto. Vabbè, Giampiero, dalla provincia di Varese, ciao, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Allora, Giampiero, giovane donna, come potrebbe essere questa giovane donna? In quest'opera. Occhi azzurri. E c'è un'opera che ha quel titolo, ma non è quella. No, non è quella che inizia con giovane donna. Quindi. Va bene. Cosa posso fare? Salutarti, giusto? Ti vedo un po'. un po' triste, ma non posso fare altrimenti. Tra l'altro più di così, giovane donna, vi ho detto, è l'inizio, è il titolo, comincia così. Grazie Giampiero, ciao. Okay, Aldo, ciao. Da Milano, Aldo. Pronto, Aldo. Ciao Aldo, buongiorno. Mi dici il titolo di quest'opera? Mi sembra Giovane donna in azzurro. È in azzurro, ma manca qualcosa. Questa giovane donna, è vero che è in azzurro, ma visto che è il titolo di un'opera di Modigliani, non è Giovane donna in azzurro, ma è Giovane donna in un certo modo in azzurro. Com'è questa giovane donna? In piedi? È bambina. Com'è? È in piedi. Sì. È in piedi? Giovane donna in piedi. Non è in piedi. Mi dispiace. Non è, no, non è in piedi. È proprio il contrario. Ciao Aldo. Abbiamo aiutato Gianni da Ravenna. Ciao Aldo. Gianni, buongiorno. Buongiorno. Allora, se non è in piedi, com'è questa giovane donna? Seduta. Seduta in... Guarda, non lo so, io pensavo fosse la prima. Ah no, aspetta, il colore, giovane donna, donna in azzurro. Oh, giovane donna seduta in azzurro. In azzurro. Lo sapevi perfettamente. Certo, no, devo essere onesto, io pensavo fosse bambina in Guarda, azzurro. Guarda, non è necessario. Perché è quello che conosco, ma... Ecco, non è necessario, tua onestà non era necessaria, abbiamo capito tutti che proprio non la sapevi. Cioè era proprio chiaro, capito, chiarissimo. No, ero un po' incerto sulla posizione della donna. Esatto, però per te il catalogo della mostra Modigliani, gli artisti di Montparnasse, due biglietti per andarla a vedere dal 21 febbraio a Milano a Palazzo Reale. Finché vedrai sventolar bandiera gialla, tu saprai che qui si balla ed il tempo volerà. Saprai quando c'è bandiera gialla che la gioventù è bella e il tuo cuore batterà. Non so se Alessandra ballava questa canzone. Beh, insomma, l'età è quella. Ah, ecco, vedi. Non sembrava, invece. Ma proprio cantata da Gianni Pettenati o cantata proprio da lui? Cantata in originale. Ah, ok, no, perché poi è stata rifatta anche con Italian Graffiati da un altro artista e quindi in modo completamente rivisitato, ma invece tu sei proprio lì. Di quell'età. Quindi guardavi la bandiera gialla e ballavi, brava. Allora, Alessandra, dobbiamo cercare... Era Ivan Cattaneo, intanto, era l'artista, non ho citato il nome, ma questo era. Allora, Alessandra, c'è un'opera, sempre di Modigliani, che ha a che fare con questa canzone. È molto facile, guarda, perché sono quei titoli di opere molto semplici. Quindi, in questo caso, è una ragazza con... Io ho pensato a Jeanne Hébuterne in maglione giallo, può essere? No. Peccato. No, peccato, mi dispiace perché hai dato una risposta che si meriterebbe di vincere, capito? E però non è quella che avevo pensato. Che peccato. Rabbia. Cosa devo fare, Alessandra? Ti devo risentire la prossima volta. Va bene, un'altra volta. Grazie a te. Gabriella da Bergamo. Buongiorno. Ciao Gabriella. Allora, questa ragazza che cosa potrebbe avere? Facile, perché... Io ho pensato a un grande cappello di paglia. Giallo. Giallo. E no, è più facile. Sempre Jeanne Hébuterne con un grande cappello di paglia, è tutto giallo. No, è Modigliani in questo caso. Sì, certo. È vero, ci sono anche gli artisti di Montparnasse in generale, non è questo. Ciao, grazie. Grazie a voi, buongiorno. Isidoro, da Milano. Sì, ciao, Isidoro, sei tu che devi dire a me, per la verità. Dovresti riuscire ad associare questa canzone a un quadro di Modigliani. Esatto. È una ragazza, allora, come può... che tu avevi... una ragazza, cosa può avere questa ragazza? Non le paturne, avere... cioè non è una cosa caratteriale, una cosa che si vede. Una ragazza con... Per quanto riguarda il quadro di Modigliani potrebbe essere... Cerca su internet, dai che è facile, no, non sei in giro. Stai cercando su internet, io ti sento che digiti. Allora... No, sto cercando su internet perché sono fuori, allora sono niente fuori, da fare. E quindi... Vai in internet. No, cosa vuol dire? Ma dato che è in azzurro potrebbe essere una bambina, o no? Ma allora, sei rimasto l'azzurro proprio di Celentano di prima, adesso avevamo bandiera gialla di pettinati. Esito, allora, niente. Ragazzi, in abito giallo. Ragazzi, in abito giallo. Dai, facciamo che va bene lo stesso. Mi ha mandato il cartellino rosso, te lo dico subito, dall'altra parte del vetro, perché sarebbe ragazza con vestito giallo. E vabbè, vestito, abito, dai, vestito no, giallo, abito giallo. Ecco, è in abito giallo. Hai ragione tu. Il notaio che ha sbagliato. Ecco, allora diciamo al notaio che sono io che ho sbagliato. Ma tu hai vinto però il catalogo della mostra e i biglietti. Grazie a te. Perché mi faceva molto piacere andare a vedere la volta di Modigliani a Milano, perché Modigliani è veramente un bravissimo pittore. E infatti così sarà dal 21 febbraio. Buona domenica, grazie Isidoro. Poi ti ringrazio a te, ciao, buona giornata. Poi con un nome da gatto, così non si poteva mica non farlo vincere. Mi piace. Federico da Chieti, buongiorno Federico. Buongiorno. Tu sei rimasto spiazzato perché adesso cambia con te, giusto, cambia il quadro. Però ti aiuterò molto perché è molto facile. Dammi retta, ascolta questa canzone. Non so se hai riconosciuto la voce, Federico, della cantante. Sarò per ignorante, ma no, penso che... La cantante è Ornella Vanoni. Ok, questa canzone si intitola Ricetta di donna. Allora, la canzone si intitola Ricetta di donna, perché lei dice come sono le donne, qual è la loro ricetta. E varie. E c'è un quadro di Modigliani che decisamente ha a che fare con questa canzone. Innanzitutto perché la protagonista è una donna, è una giovane. E secondo te cosa potrebbe essere questa donna? Una giovane, Federico? Una giovane cosa? Ma è riferito sempre a ricetta di donna, quindi... Una giovane... Essendo riferito a ricetta di donna, a questa canzone potrebbe essere... ricetta in senso stretto o in senso lato? Adesso anche tu... Potrei dire una castroneria. Provaci, una giovane... Cuoca, non lo so. Una giovane cuoca, eccolo là, vedi? Dov'era la castroneria? No, perché... Era giusto. ...i livelli di interpretazione... Perfetto, Federico, bravo, una giovane cuoca, e per te due biglietti per la mostra Milano, Modigliani Altissimi di Montparnasse, e ovviamente il catalogo della mostra. Buona domenica, ciao. Buona Federico. Grazie a te. Dal 21 febbraio a Milano, settimana prossima ancora per voi, Modigliani 24 minuti, oltre ovviamente al Riposo del Guerriero. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, Alessandro Longoni in assistenza, Filippo Aureggi in regia, e a voi, come sempre, buona settimana e buona domenica da Stefano Gallarini.